ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. L'esame di famiglia. Di nessuna cosa Lars Gunnarsson si rallegrava tanto come di aver avuto l'ispirazione di togliere il bastone e il berretto di cuoio a Hjandis Krolika. Sembrava addirittura che insieme gli avesse tolto la pazzia. Un paio di settimane dopo l'asta di Bergvik doveva tenersi a falla l'esame di famiglia. Vi si radunò gente di tutta la contrada attorno al lago Duzio, e tra gli altri vennero anche quelli di Skrolika. E figurarsi che nessuno avrebbe mai detto vedendo Jan che non avesse la testa a posto. Tutte le panche e le sedie che esistevano a falla furono portate nello stanzone giù al pian terreno. Vi presero posto in file serrate i partecipanti all'esame, e come tutti Jan, senza minimamente farsi avanti per avere un posto migliore di quello che gli era capitato. La tarde negli occhi di cui tutto tempo, e dovete riconoscere che effettivamente la pazzia se n'era andata. Jan si comportava in tutto e per tutto come un'altra persona. Se ne stava in perfetto silenzio, e chi lo salutava non riceveva in risposta un cenno brusco. Se ne stava in perfetto silenzio, e chi lo salutava non riceveva in risposta che un cenno brusco. Ma questo poteva anche dipendere dal fatto che non voleva disturbare la meditazione durante... Ma questo poteva anche dipendere dal fatto che non voleva disturbare la meditazione durante l'esame di famiglia. Prima dell'inizio dell'esame vero e proprio, bisognava fare l'appello dei presenti, e quando il pastore chiamò Jan Andersson di Skrolika, Jan rispose presente senza la minima esitazione, come se l'imperatore Johannes di Portugallia non fosse mai esistito. Il pastore era seduto davanti a un tavolo all'estremità del salone e teneva davanti a sé il grande registro degli esami di famiglia. Al suo lato sedeva Lars Gunnarsson e lo aiutava a raccapezzarsi indicandogli quelli che durante l'anno si erano trasferiti dalla circoscrizione e quelli che si erano spostati. Quando Jan rispose con tanta prontezza, i presenti videro il pastore rivolgersi a Lars e domandargli qualcosa a bassa voce. «Non era poi così grave come sembrava», rispose Lars. «Gliel'ho tolta dalla testa io. Ora viene ogni giorno a falla e lavora, come ha sempre fatto». Lars non aveva avuto l'accortezza di moderare la voce, lui, come il pastore. Tutti capirono a chi alludesse e molti sguardi cercarono Jan, ma questi rimase tranquillamente seduto come se non avesse udito nulla. Poi, quando ebbe inizio l'esame, il caso volle che il pastore invitasse uno di quei giovani trepidanti che dovevano essere esaminati sulla dottrina cristiana a recitare il quarto comandamento. Ma non era del tutto un caso che il pastore quella sera scegliesse proprio quel comandamento. In quella vecchia dimora, così sicura e imponente, con le sue panche fissate alle pareti, all'antica, come del resto tutto il mobilio, e con evidenti segni di prosperità ovunque, si sentiva portato a ricordare ai presenti come stanno bene coloro che si tengono uniti di generazione in generazione, che lasciano i vecchi dirigere le cose finché ne sono in grado e poi li rispettano e li onorano per tutto il resto della loro vita. Aveva appena cominciato ad esporre le grandi promesse fatte da Dio a coloro che onorano il padre e la madre, quando Hjandis Krolika si alzò. «C'è qualcuno fuori dalla porta e non osa entrare», disse. «Andate a vedere di che si tratta, Borie, voi che siete più vicino alla porta», pregò il pastore. Borie si alzò, aprì la porta e guardò nel vestibolo. «Non c'è nessuno», disse. «Jan deve essersi sbagliato». L'esame riprese. Il pastore spiegò ai suoi ascoltatori che quel comandamento non era tanto un ordine quanto un buon consiglio, che era meglio seguire alla lettera se si voleva trovarsi bene nella vita. Lui stesso non era che un giovanotto, disse, ma aveva già visto e vissuto a sufficienza da poter testimoniare che il disprezzo per i genitori e la disobbedienza al loro volere erano il più sicuro fondamento all'infelicità di tutta un'esistenza. Mentre il pastore parlava, Hjandis Krolika volgeva di tanto in tanto il capo verso la porta. Faceva segno a Katrina, che era seduta in ultima fila e poteva uscire più facilmente, che andasse ad aprire. Katrina resistette più a lungo che poté, ma aveva anche un certo timore a scontentare Jan in quel periodo, e alla fine gli obbedì. Ma come ebbe aperto la porta, non vide ombra di anima viva in anticamera più di quanta ne avesse visto Bobby. Scosse la testa verso Jan e tornò al suo posto. Il pastore non si era lasciato turbare dalla passeggiata di Katrina. Con grande gioia di tutti gli esaminandi aveva quasi rinunciato a far domande, abbandonandosi invece allo sfogo di tutti i bei pensieri che gli si affollavano nella mente. «Pensate», diceva, «com'è buono e saggio tenere i nostri cari vecchi con noi nella nostra casa. Non è bello poter essere un sostegno per coloro che ci hanno aiutati quando non sapevamo fare nulla, poter rendere felice e facile la vita a coloro che magari hanno sofferto la fame e il freddo per procurarci il pane? È un onore per una giovane coppia avere un vecchio padre e una vecchia madre felici e contenti». Proprio mentre diceva così, si udì un pianto sommesso in un angolo, all'estremità della stanza. Lars Gunnarsson, che sedeva col capo devotamente chino, si alzò subito. Attraversò la stanza in punta di piedi per non disturbare. Pose il braccio attorno alla vita della suocera e la trasse con sé alla tavola dove sedeva il pastore. Qui le cedette la propria sedia, prendendo posto dietro di lei, senza mai lasciarla con lo sguardo. Fece anche un cenno alla moglie, che si avvicinò a sua volta mettendosi dall'altra parte. Faceva bell'effetto. Si capiva che Lars voleva mostrare che qui, a casa sua, tutto era come il pastore diceva che doveva essere. Il pastore si illuminò di gioia guardando la vecchia madre circondata dai suoi figli. La sola cosa che lo allarmava un po' era che la vecchia continuava a piangere, sciogliendosi letteralmente in lacrime. Non gli era mai successo finora di provocare una simile commozione in qualcuno dei suoi parrocchiani. «Sì», proseguì il pastore, «non è difficile osservare il quarto comandamento finché siamo giovani e dipendiamo dai nostri genitori, ma è dopo che costa sacrificio, quando noi stessi siamo diventati adulti, e ci sembra di essere altrettanto saggi». A questo punto il pastore fu di nuovo interrotto da Jan, che finalmente era riuscita ad arrivare di persona alla porta e l'aveva aperta. Jan ebbe più fortuna degli altri. Si udì che diceva buongiorno a qualcuno che stava fuori nel vestibolo. Tutti quanti volsero gli occhi verso l'uscita per vedere chi era che era rimasto là fuori durante l'intero esame senza osare entrare. Sentirono Jan pregare e insistere finché lo videro spalancare la porta, ma evidentemente lo sconosciuto continuava a rifiutarsi di entrare. Alla fine Jan richiuse la porta e rientrò solo. Non riprese però il suo posto di prima. Avanzò invece con gran rara sospetto. «Allora, Jan?» disse il pastore con un leggero tono di impazienza. «Possiamo sapere adesso chi è che ha continuato a disturbarci per tutta la sera?» «Era il vecchio padrone di Falla», annunciò Jan senza mostrarsi minimamente stupito né turbato di quel che aveva da raccontare. «Non è voluto entrare, ma mi ha pregato di portare un saluto a Lars e di dirgli di fare attenzione la prima domenica dopo la mezza estate». In un primo momento non furono in molti ad afferrare il senso nascosto di quelle parole. Quelli che sedevano agli ultimi banchi non avevano neanche potuto sentire bene, ma si accorsero da come il pastore era trasalito che Jan doveva aver detto qualcosa di spaventoso. Balzarono tutti in piedi e si affollarono più vicino, domandando a destra e a sinistra di chi mai Jan avesse portato i saluti. «Ma Jan!» esclamò il pastore con voce severa. «Sai quel che dici?» «Certo che lo so», rispose Jan, facendo al pastore un cenno di conferma. «L'avevo ben sentito là fuori tutto il tempo. L'ho pregato di entrare, ma non ha voluto. Ha mandato soltanto i saluti al genero e poi se n'è andato. Digli», ha aggiunto, «che non sono io che ce l'ho con lui perché mi ha lasciato sotto la neve quando mi è successo l'incidente invece di soccorrermi da tempo. Ma il quarto comandamento è un comandamento severo. Digli da parte mia che è meglio che si penta e confessi. A tempo fino alla domenica dopo la mezza estate». Jan parlava così lucidamente e riferiva la straordinaria ambasciata in maniera così credibile che tanto il pastore quanto gli altri per un attimo non ebbero dubbi che Eric di Falla era realmente venuto alla porta della sua vecchia dimora e gli aveva parlato. E involontariamente volsero tutti quanti gli occhi verso Lars Gunnarsson per vedere che effetto gli avevano fatto le parole di Jan. Ma Lars stava ridendo. «Credevo che Jan fosse rinsavito», disse, «altrimenti non l'avrei lasciato venire all'esame di famiglia. Il pastore mi scuserà per l'incidente, è la pazzia che risalta fuori, è evidente. «Certo», disse il pastore con un sospiro di sollievo, passandosi la mano sulla fronte. Era stato sul punto di credere di essersi imbattuto in un evento soprannaturale. Per fortuna non si trattava che della fantasia di un pazzo. «Vedete, pastore, Jan non ha un grande amore per me», proseguì Lars, «e lo lascia capire ora che non c'è più la ragione a trattenerlo. Devo anche riconoscere che, a conti fatti, è stata colpa mia se sua figlia è dovuta andare in giro per il mondo a guadagnare denaro, ed è questo che non mi può perdonare». Il pastore restò, a dire il vero, un po' stupito di quel tono infervorato. Rivolse a Lars uno sguardo scrutatore dal profondo dei suoi occhi azzurri, ma Lars levitò, distogliendo gli occhi. Si accorse che era un errore e si sforzò di guardare il pastore dritto in volto, ma, non riuscendoci, si allontanò con una bestemmia. «Lars Gunnarsson!» esclamò il pastore. «Che vi succede?» Lars si riprese subito. «Come sbarazzarmi di quel pazzo?» disse, quasi fosse contro Jan che aveva bestemmiato. «State tutti lì, voi e i miei vicini, a guardarmi come un assassino solo perché un matto ha un vecchio rancore verso di me. Vi ripeto che è per via della figlia che ce l'ha con me. Non potevo mica sapere che sarebbe andata via e sarebbe finita male solo perché chiedevo quel che m'era dovuto. C'è qualcuno qui che può badare a Jan in modo che possiamo continuare la nostra meditazione?» Il pastore si passò ancora una volta la mano sulla fronte. Si sentiva a disagio per le parole di Lars, ma non poteva azzardarsi a parlargli di punizione quando non sapeva nulla di preciso. Cercò con gli occhi la vecchia padrona, ma se n'era andata via, senza farsi notare. Allora volse lo sguardo intorno fra i presenti, ma non approdò a nulla. Era sicuro che ciascuno di loro sapesse se Lars era colpevole o no, ma quando li guardava, sembrava che i loro volti si chiudessero al punto di perdere ogni espressione. Katrina si era avvicinata e aveva preso Jan sotto il braccio. Erano già diretti verso l'uscita e ad ogni modo preferiva evitare di interrogare un matto. «Credo che possa bastare per oggi», disse il pastore con calma. «Ora possiamo concludere». Recitò una breve preghiera e fu cantato un salmo. Dopodiché l'assemblea si sciolse. Il pastore fu l'ultimo ad andarsene. Accompagnandolo al cancello, Lars portò di sua iniziativa la conversazione su quanto era avvenuto. «Avete notato, pastore, che è la domenica dopo la mezza estate che dovrei stare in guardia?» disse. «È la dimostrazione che è proprio a sua figlia che pensa Jan. Era la domenica dopo la mezza estate dell'anno scorso che andai da Jan per regolare la questione della casa». Il pastore si sentì ancor più terribilmente a disagio per tutte quelle spiegazioni. Pose all'improvviso la mano sulla spalla di Lars Gunnarsson e cercò di guardarlo dritto negli occhi. «Lars Gunnarsson», disse con voce dolcemente persuasiva, «io non sono un giudice, ma non dimenticate che se avete qualcosa sulla coscienza potete venire da me. Vi aspetto, Lars Gunnarsson. Vi aspetto ogni giorno. Non lasciate soltanto che diventi troppo tardi». Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it